Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata cari radioascoltatori, cari gastronauti. Certo che le notizie che arrivano non sono quelle che mettono in condizione di fare, per così dire, una trasmissione molto allegra e parlare di cibo, però la vita continua e noi oggi parleremo di pausa pranzo. Pausa pranzo perché? Perché sembra che torni la schiscetta. Ora vedremo di che cosa si tratta. Molti magari in alcune parti d'Italia non sanno cos'è la schiscetta, viene chiamata in altra maniera, e quindi spiegheremo anche questo. Ma perché torna questa pausa pranzo molto particolare e devo dire molto limitata, risparmiosa direi? Forse la crisi, ma forse anche perché la gente probabilmente vuole anche mangiare meglio, perché non so se portarsi qualcosa da casa, qualcosa di magari di riscaldato, sia più sano che mangiare magari un panino, che ne so, che ha un po' di giorni, oppure con delle piastre infuocate come si vedono in certi bar che colano di grasso. Bene, lo vedremo durante la trasmissione. Numero verde 800 24 00 24 e vi faccio questa domanda: vi portate da mangiare da casa in ufficio oppure o in fabbrica? Messaggi SMS 349 238 6666. Bene, cominciamo con Andrea Schiesaro, occhioaltrend.it. perché? Perché hanno fatto un'indagine in questo sito molto interessante. Quant'è la percentuale della gente su un campione seppur ristretto che si porta il pranzo in ufficio? Lo chiediamo appunto. Buongiorno Andrea. Buongiorno Paolini, buongiorno ascoltatori. Ma innanzitutto, come dice lei, è un fenomeno sicuramente in crescita. Infatti ormai un italiano su due, il 53%, si porta il pranzo da casa. Questo è un campione di lavoratori tra i 20 e i 55 anni che ha sicuramente registrato una tendenza dovuta in parte sicuramente al risparmio economico, ma sicuramente non è da trascurare il fatto di comunque voler mantenere le proprie abitudini alimentari, per cui mangiare più sano ed equilibrato. Infatti, sebbene il 46% appunto indichi solo il risparmio economico come principale motivazione, il 29% al secondo posto indica proprio l'esigenza di mangiare meglio. Quindi è un fenomeno che sicuramente è ritornato negli ultimi anni, perché era completamente scomparso. Questa parola schiscetta o gamella non si sentivano più, non si vedevano più. Assolutamente. Tra l'altro è un fenomeno, come dire, anche sociale. Ecco, questo dai dati che emerge non è un fenomeno singolo e individuale, ma poi è un collega che poi coinvolge, fa da apripista in ufficio e coinvolge poi altri colleghi, per cui diventa anche, come dire, comunque un fenomeno, si ritorna a un fenomeno sociale di pranzo, di convivialità, che comunque è sempre presente anche in momenti di crisi, anzi forse soprattutto in momenti di crisi come questo. Grazie Andrea. Ripeto, numero verde 800 24 00 24 349 238 6666 per gli SMS. Diteci se vi portate da mangiare da casa, questo è un bel interrogativo, così scopriremo anche cosa. Bene, abbiamo con noi Cecilia Robustelli, che ogni tanto chiamiamo perché ci spieghi magari dei termini. Buongiorno Cecilia. Buongiorno Davide, buongiorno. Che è docente di linguistica italiana all'Università di Modena e anche collaboratrice dell'Accademia della Crusca, quindi chi meglio di lei ci può dire cosa significa e da cosa deriva schiscetta? Ringrazio per la fiducia e mi scuso per un po' di rumore, ma sono giusto a Roma a un convegno sulla lingua e quindi adesso parliamo di schiscetta. Dunque, schiscetta è un vocabolo attestato già dalla fine dell'Ottocento e significa schiacciata, il corrispondente milanese di una cosa schiacciata. Infatti risulta usato in quel periodo o per definire un cappello che si portava sotto il braccio, la schiaccina, oppure una fiaschetta, sai quelle fiaschette piccole, schiacciate, dove si mette da bere quando si va in viaggio. Mentre con il significato attuale è un pochino più tardo, sembra che risalga alla metà degli anni 70. E anche produttivo, cioè un termine dal quale se ne formano altri. Per esempio, si trova attestato schiscettari, cioè quelli che usano, quelli che portano la schiscetta. È una cosa piuttosto divertente ed è entrato nell'italiano è stato usato al tempo delle cosiddette domeniche ecologiche. Infatti un famoso quotidiano si chiede: torneranno in voga le caldarroste, le borse per l'acqua calda? Arriverà la schiscetta con gli schiscettari? Quindi è piuttosto curioso. Bene, grazie Cecilia, come al solito esaustiva e anche divertente. Ti ringrazio. Bene, sentiamo già un radioascoltatore, Gianni da Lecce. Buongiorno Gianni. Buongiorno, buongiorno signor Paolini. Io ho lavorato per 42 anni facendo il metallo meccanico e quindi dal lavoro mi portavo da mangiare da casa e usavo quei padellini che noi qua in Puglia chiamiamo camellini, che praticamente mia moglie poi mi prepara, prima mia madre, poi mia moglie mi preparava primo e secondo, perché c'era un doppio fondo e quindi usavo quelli per andare a mangiare. Io ho iniziato a lavorare nel 68, adesso sono in pensione, quindi l'ho usato per tanti anni, perché quando hanno messo le mense ho iniziato a lavorare e mi sono rovinato un po' lo stomaco, quindi se, diciamo è stato un toccasana ecco, ho incominciato di nuovo ad usare, insomma, questa era in acciaio. Io avevo comprato nel 69 più o meno, adesso ce l'ho ancora, ti figuri, e quindi mettevo il mangiare, anche il secondo, portavo il pane. Bene, insomma, si portava tutta roba genuina e fatta in casa. Roba genuina, quindi sentiva anche il clima di casa, perché anche questo. Certo, bene, certo, grazie. Certo, ma era tutto. Grazie Gianni da Lecce per la sua testimonianza. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di schiscetta. Avete sentito da che cosa deriva? Io credo che ho anche qui altri studi. Schiscià vuol dire schiacciare, quindi schiacciando la gamella per chiuderla per, diciamo, dentro il mangiare. Ricordo il numero verde 800 24 00 24. Sentiamo Gianfranco dalla provincia di Milano. Buongiorno Gianfranco. Buongiorno a voi tutti. Prego. Allora, io volevo dire una cosa. Siccome ho avuto dei problemi proprio di salute, mangiando in giro, e mi sono beccato uno stafilococco, da allora, voglio dire, mi porto la schiscetta da casa, che è molto più genuina. Oltretutto in questo momento di crisi è molto più economica e soprattutto è molto più sicura. Bene Gianfranco, durante la trasmissione riveleremo anche che c'è una schiscetta veramente ultramoderna, ne parleremo, addirittura è solare, pensate un po', che si ricarica con il sole. Bene, poi lo scopriremo. Ma voglio anche ricordare, visto che si parla di pranzo pausa, di pranzo pasto, vorrei ricordare che è il 250esimo anniversario dell'invenzione del sandwich. In questi giorni a Sandwich nel Kent infatti si celebra questo anniversario in onore di John Montagu, quarto conte di Sandwich, che inventò appunto questo particolare panino quando non voleva interrompere appunto il suo gioco a carte e voleva mangiare qualcosa. Quindi il 250esimo anniversario in questo paesino del Kent è ricco di eventi, cade a fagiolo appunto con questa trasmissione. Bene, abbiamo parlato di schiscetta, ne continueremo a parlare, ma parliamo anche di pausa pranzo con altri cose. Allora andiamo a Milano, poi faremo un giro dell'Italia. Andiamo da Martina Camporeale e zerobriciole.com, pranzo a domicilio. Buongiorno Martina. Buongiorno Davide. Allora, cosa offrite voi come sito che consegnate a domicilio per la pausa pranzo? Allora, le proposte di Zero Briciole sono veramente diverse e proprio per rispondere a tutte le esigenze e le particolarità alimentari, vogliamo insomma dare un'alternativa a bar e baretti che spesso dispensano insomma pietanze mal riscaldate e indigeste. Il cibo di Zero Briciole è un cibo appunto, come dice la parola, che non sporca, non sbriciola, non impatta con le tecnologie e con l'ambiente di lavoro, è un cibo buono, sano, che insomma che ti vuole bene, che si prende cura di questo momento, insomma, che è sì un momento funzionale perché bisogna nutrirsi, ma è anche un momento ricreativo, di condivisione, e quindi i nostri pasti sono divertenti, sono molto belli e soprattutto ecco, non appesantiscono, in modo che si possa riprendere. Martina, chi è il vostro cliente? Il nostro cliente, diciamo, soprattutto sono lavoratori, persone che ci chiamano da uffici durante la pausa pranzo e e quindi sono insomma persone molto attente al momento del pasto, che vogliono nutrirsi in modo sano, che hanno poco tempo e che vogliono insomma qualcosa che colori le loro scrivanie. Bene, grazie Martina, ora da Milano, prima ricordo il numero verde 800 24 0024 e sento Lia da Verona, una radioascoltatrice, buongiorno Lia. Buongiorno. Prego. Dunque, io sono una datrice di lavoro, sono una professionista, in studio siamo in 6 persone, io ho 5 collaboratori. Quando ho ristrutturato lo studio ho chiesto all'architetto di prevedere la presenza di una cambusa e di una zona pranzo. La cambusa è stata attrezzata con un frigorifero, un forno a microonde, una piastra, e quindi i collaboratori ed io stessa portiamo in studio il cibo che consumiamo insieme, ci sediamo a tavola insieme, chiacchieriamo a ora di pranzo, ognuno porta quello che desidera mangiare, quindi chi è allergico fa a meno delle cose che gli fa male, chi è vegetariano porta alimenti che rispettano la sua dieta, e riusciamo anche a creare un momento di aggregazione e di mangiare sano, e sicuramente i miei ragazzi risparmiano, quindi sono molto contenta di aver fatto questa scelta e credo che siano molto contenti anche loro. Bene, grazie. Ora andiamo a Roma, andiamo alla panineria 200 gradi. Buongiorno Gianni Mancini. Buongiorno a tutti. Mancini, allora vediamo a Roma cosa succede nella pausa pranzo da lei con i panini. C'è grande affluenza? Sentite, diciamo, la concorrenza della schiscetta, gente che si porta da mangiare da casa? No, diciamo di no, noi offriamo una valida alternativa insomma alla pausa pranzo, e con una vasta scelta di ingredienti proponiamo un sacco di panini fatti da noi, escludendo, che ne so, in genere uno nei panini è abituato a pensare alle salsicce, agli hamburger, invece noi facciamo con tutti i prodotti tipici, affettati, sottoli, salse, e offrendo questo tipo di alternativa e varietà sulla scelta, diciamo concorrenziale anche sui prezzi, insomma, e diciamo che non ce l'abbiamo problemi sotto quel punto di vista. Un sacco di gente sceglie di venire a mangiare da noi piuttosto che andare a fare un panino al supermercato, diciamo. Bene, grazie Gianni Mancini. Ora sentiamo Angelina, una radioascoltatrice da Milano. Buongiorno Angelina. Buongiorno, senta, io posso testimoniare che la schiscetta la usava mio suocero, che era reduce della prima guerra. Quindi è assurdo parlare del 1970. Sì, no, ma sicuramente ha detto che nel 1970 è tornata di moda. Ah, sì, sicuramente prima delle mense aziendali che risalgono fine 800, primi 900, e credo che le prime storicamente siano proprio nate a Sesto, alla Breda e alla Falck, sono nate lì le prime mense, e sicuramente c'era la schiscetta perché non c'era altro modo di alimentarsi, quindi sicuramente. Ma lei si ricorda cosa si portava? E si portava di solito il risotto oppure pasta e fagioli, quelle cose lì. Calde, quindi diventi. Sì, era una cosa di alluminio, sì? Con una chiusura che chiuseva molto bene. Bene. Una specie di barretta di traverso che chiudeva il tutto. Ebbene, proprio schisciate, arriva proprio da questo, da chiudere, da spingere. Bene, sì. Voglio anche ricordare che la schiscetta non è un fenomeno solamente italiano, è un fenomeno mondiale, si può dire, perché ad esempio ci sono delle schiscette, erano chiamate in altro modo, comunque in argento, dei Maharaja in India, che erano perfette perché si manteneva caldo il mangiare dentro, appunto con l'acqua calda. Io così ne ho comprata una un paio di anni fa in un mercatino, quindi posso testimoniare che è un fatto sicuramente mondiale. Voglio anche ricordare, sempre a Milano, mi scrive Domenico Mignamini sul gastronauta.it, dice che questo nome veniva storpiato a Milano, veniva il sandwich, veniva chiamato sanguis, e molti pensavano che fosse sanguinaccio, pensate un po', quindi uno chiedeva un sandwich e in realtà pensava di prendere un sanguinaccio. Bene, ora andiamo a Palermo, perché anche a Palermo vogliamo sentire cosa succede nella pausa pranzo. Andiamo da Franco Giglio, titolare di Cibus. Buongiorno Giglio. Ah, buongiorno, come state? Bene, stiamo bene. A Palermo c'è il sole? Sì, qui c'è una bella temperatura, non c'è molto caldo, e la temperatura ideale del periodo diciamo pre-estivo. Senta, Giglio, il periodo più bello per venire in vacanza qui in Sicilia. Giglio, cosa succede a mezzogiorno per la pausa pranzo a Palermo? Da noi? Sì. Vabbè, il nostro problema è quello di determinare servizi e piatti e consuetudini legate alle nostre tradizioni, perché stanno diventando un punto di riferimento per la pausa pranzo e per i turisti che in maniera economica vogliono mangiare un boccone veloce. Ma cosa, ecco, lei cosa offre al, diciamo, all'affamato? Ma noi abbiamo un assortimento molto variegato, perché abbiamo un'attività commerciale che è stata inserita dentro un grosso ente di ristorazione, per cui ogni giorno abbiamo un assortimento che va dai piatti di salumi e formaggi che si possono fare al banco di salumeria, a della gastronomia, diciamo, veloce di stile siciliano mediterraneo, alla rosticceria siciliana famosissima, dalle arancinette, gli spincionelli, alle mini moffolette fatte a forno a legno e ai primi piatti e alle pizze fatte a forno a legno. Quindi un menù completamente completo, insomma. Uno sì, può da noi l'idea di dare questo servizio e di fare scegliere a chi che viene in maniera estemporanea cosa mangiare qui, al momento. Noi il menù dei piatti espressi, dei primi immediati, lo gestiamo ogni mattina. Bene. A secondo come va il tempo. Bene, bene, grazie Franco Giglio. Ricordo, numero verde 800 24 00 24. Sentiamo Beppe da Reggio Emilia. Buongiorno, dottor Paolini. Mi ha fatto venire in mente quando ero ragazzino io che andavo con mio padre che faceva carri di camion, gli scalatori così. E da noi in Calabria, io sono di Reggio Emilia ma sono originario della Calabria. Okay. Si chiamava La Spisa. Non so se abbiamo ancora Beppe da Reggio Emilia. Beppe, ci sono. Diceva che la schiscetta è in calabrese, dicevo, in Calabria. Si chiama La Spisa. La Spisa, bene. Abbiamo imparato anche questo, grazie Beppe. Sentiamo Giancarlo da Milano. Buongiorno Paolini. Mi dica. Io sono nato e cresciuto a Sesto San Giovanni e ricordo mio papà che lavorava alla Falck. E ancora nel 61 andava al lavoro con la schiscetta, poi fino a quando non c'è stato l'avvento poi delle messe aziendali. Quello che diceva un'ascoltatrice poco fa, che un suo familiare ha portato alla Grande Guerra la schiscetta, per cui non è originaria del 70, infatti dicevo che nel 61 mio papà la utilizzava, è quella che era militare alla gavetta, che ha avuto l'evoluzione che è diventata poi la schiscetta che utilizziamo ancora noi oggi. No, è stato interpretato male l'intervento di Cecilia Robustelli. Lei ha detto che c'è stato un ritorno sui media negli anni 70, ma ha detto che l'origine è molto precedente, quindi sicuramente l'origine è precedente alle mense, perché nel 61 c'è stata la mensa sicuramente Falck e Breda, ma prima c'erano state anche altre mense, quindi sicuramente è ancora prima della schiscetta, diciamo, che sicuramente ha funzionato, ma probabilmente fino agli anni 50-60 di sicuro, e in certi posti è andata oltre perché non tutte le aziende avevano la mensa, quindi sicuramente magari da alcune parti d'Italia fino agli anni 80. Bene, grazie comunque Giancarlo di questo ricordo. Passo la linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta. Continuiamo questo viaggio nella pausa pranzo con la schiscetta, diciamo, protagonista. Bene, abbiamo con noi ora l'autore di un libro e anche di un blog, Pausa Pranzo, si chiama il titolo del libro, Tommasi Editore, Come stare lontano dai bar e vivere felici. Buongiorno Stefano Arturi. Ciao Davide, ciao a tutti gli ascoltatori. Bene, abbiamo parlato di schiscetta, abbiamo parlato sicuramente di ricordi, ma qui ci sono tutta una serie di ricette che tu hai fatto proprio per la schiscetta. Addirittura racconti che, diciamo, è un'esperienza tua personale, che hai sempre una borsa tracolla e vai in giro appunto con la tua schiscetta, nonostante ora tu sia a Londra e tu abbia aperto un caffè a Londra. È così, Stefano? Esatto, sì. Io ho lasciato Milano moltissimo tempo fa e, come tu ben sai, la pausa pranzo milanese, e mi scuso con tutti i baristi e i ristoratori, a volte può essere un'esperienza fantoziana di qualità, diciamo, abbastanza bassa, e quindi alla fine me l'ho un po' scocciato di questa situazione, quindi avevo iniziato un po' a prepararmi le cose che io volevo mangiare, anche perché allora lavoravo in una redazione e come tu sai i ritmi possono essere abbastanza forsennati, quindi ritagliarsi quell'ora per veramente un po' coccolarsi, star bene con se stessi e soprattutto mangiare quello che piace è importante. Quindi ho iniziato un po' a sviluppare queste ricette, poi sono tanti anni che scrivo di cucina, mi occupo di cucina, ho detto ok, facciamoci un libro. Quindi nasce da un'esperienza personale, ma anche penso condivisa da molti, non so nelle altre città come sia, però insomma spesso vedo delle cose orride in questi bar del mezzogiorno, pane surgelato, scongelato male o queste orride insalatone, che è una parola che odio. Senti, ma a Londra com'è la situazione? Guardi, in realtà tu mi stai chiamando, io sono adesso abito a Lyme Regis, che è un paesino sul mare, un paesetto di pescatori nel Dorset, quindi è una, qui è un po', cioè abbiamo le insalate organiche, gli sgombri, adesso la stagione, stanno venendo fuori. A Londra, ma sai, in Inghilterra si può mangiare molto bene e molto male, sicuramente loro hanno il culto del panino, che a volte come da noi sono molto buono o pessimo. In generale la situazione è enormemente migliorata, la cosa che spiace, devo dirle, che invece a volte la qualità media italiana si è abbassata, si mangia molto bene in Italia in alcune nicchie, però a volte la qualità media, soprattutto nelle grandi città, insomma, lascia desiderare. Bene, grazie a Stefano Arturi, lo ripeto, pausa pranzo, ci sono tutta una serie di ricette come stare lontano dai bar e vivere felici. Sentiamo Giovanni da Milano, radioascoltatore, buongiorno Giovanni. Buongiorno Davide Paolini, io sono un commerciante di Milano e di fianco al mio negozio aveva aperto, perché mi ha portato il fatto di chiamare, che questa iniziativa non è riuscita a sopravvivere all'inizio, avevano aperto dei ragazzi che avevano pensato l'idea della schiscetteria. Quindi avevano un laboratorio che preparava del cibo fresco, quindi non congelato, cose, e veniva servito nelle schiscette di acciaio come quelle dei minatori. Sì. E venivano date queste vaschette con del cibo precotto e riscaldato e venivano servite a tavola con la schiscetta. C'era tutta un'idea che girava intorno, c'era una specie di esposizione di schiscette storiche e i clienti avrebbero dovuto apprezzare questo fatto di mangiare nella schiscetta una cosa veloce, una cosa però di qualità, non di grande. E non ha funzionato. Purtroppo non ha funzionato, forse è un po' avanti, però l'idea di riprendersi la schiscetta, riappropriarsi del proprio cibo portato anche in un ambiente di lavoro, quella poteva essere un'idea che, dico la verità, mi era piaciuta. E il cibo era di buona qualità, perché era fatto da uno chef, era fatto in modo protetto, in modo... Vabbè, e vediamo, la qualità forse piace sempre di meno, forse poteva essere anche un fatto di costo. Grazie Giovanni di questa diciamo nota che hai voluto fare. E ora abbiamo parlato di schiscetta, abbiamo parlato di schiscetta di metallo, abbiamo parlato di schiscetta della prima guerra mondiale, ma anche, cioè, l'evoluzione è ovunque, anche nella schiscetta. Ora ce la facciamo raccontare da Chiara Filios, che è titolare dello studio Normale Architettura. Buongiorno Chiara. Buongiorno a tutti. Il nostro progetto sì, non è niente di come dire fantascientifico, in realtà è un progetto di packaging per il cibo che funziona con il sole. È un oggetto che noi definiamo low tech, nel senso che ha basso impatto tecnologico ed è nato dall'osservazione del quotidiano, come si è detto anche in trasmissione. Quindi l'attitudine a consumare i pasti preparati in casa al di fuori delle mura domestiche. Questo progetto prende spunto dal solar cooking, che è una modalità di cottura dei cibi che utilizza appunto il sole per cuocere e che è diffuso soprattutto in Africa o comunque in situazioni in cui è difficile installare una cucina tradizionale, diciamo. Noi abbiamo applicato il principio del solar cooking, che poi è il forno solare, alla tradizionale schiscetta. Ecco. Quindi non per cuocere, ma per riscaldare i cibi, che sono già precotti da noi a casa oppure comprati magari fuori. Senta Chiara, ma questa cosa è già, diciamo, in distribuzione, in vendita, oppure è ancora un progetto? Allora, noi l'abbiamo presentato durante il Salone del Mobile lo scorso mese e ha avuto veramente un successo incredibile. Abbiamo presentato dei prototipi durante quell'evento e adesso stiamo ultimando il prodotto che poi andrà in produzione. L'oggetto, appunto, dicevo, è un oggetto low tech nel senso che il materiale con cui è fatto è cartone, accoppiato con una pellicola di alluminio, e funziona aprendo la scatola in direzione del sole. Il cibo contenuto in un sacchetto per la cottura del cibo al forno è posizionato alla base della scatola, che ha una superficie scura e funziona da accumulatore di calore. Dopo una tot di tempo, a seconda appunto del cibo che uno ha preparato, il cibo è riscaldato e viene consumato nel sacchetto, per cui l'unico rifiuto che noi produciamo è il sacchetto, mentre la scatola viene riutilizzata più volte. E questo è un punto molto importante del progetto, perché appunto promuove l'utilizzo plurimo dell'oggetto piuttosto che l'usa e getta. Senta, Chiara, quanto cibo ci può stare dentro, diciamo, la schiscetta che voi avete progettato? Dunque, le dimensioni sono quelle delle scatole tradizionali che si trovano anche nei supermercati, scatole per il cibo, per cui diciamo che sono dei monoporzioni. Bene. Come diciamo dimensione. Bene, buona fortuna allora. Grazie. Buona Grazie. Fortuna con questa nuova schiscetta. Finalmente abbiamo la schiscetta degli anni 3000. Augusto D'Alecco, un radioascoltatore, buongiorno. Buongiorno Davide Paolini. Dunque, io mi ricordo che da ragazzo, io sono milanese di nascita e da Milano sono stati sfollati in tempo di guerra nel 42 a Stradella, e da Stradella andavo a scuola a Voghera, prendevo il treno e mia madre mi dava la schiscetta, che era composta di due comparti, dove in uno si metteva magari la minestra, in quell'altro il secondo, e poi c'era un altro tipo di schiscetta di alluminio un po' ovalizzata, il cui coperchio faceva anche da bicchiere, ecco. Quindi si poteva mangiare e bere, insomma. Sì, faceva le due funzioni, l'ho usata parecchio, è sempre stato molto comodo. Naturalmente non era termica, per cui bisognava riscaldare in qualche modo il cibo che era contenuto, secondo quello che era contenuto. E poi l'ho utilizzata anche quando mio figlio faceva lo scout, e allora certe volte nei campeggi davamo la scatoletta. Bene. Per altre cose, piccola, in acciaio inossidabile, più moderna. Grazie Augusto. Prego, grazie. Ora andiamo in Piemonte, andiamo da Silvio a Novara. Buongiorno Silvio. Buongiorno Paolini. Prego. Dunque, mi dica. No, prego, parli pure. Vado. Io sono un anziano ex macchinista che una volta negli anni 60 così ci andava a vapore, e la schiscetta se ne portava via da casa più di una. Una serviva magari per la cena o per il pranzo sopra la macchina, e l'altra serviva per il giorno dopo per la colazione. Quando si andava a vapore bisognava anche nutrirsi in un modo un po' robusto, diciamo, la fatica era tanta, il freddo, il caldo, queste cose. Perciò il personale di macchina a vapore usava più di una schiscetta, parliamo prima degli anni 60, diciamo. Senta Silvio, lei che linea faceva? Novara Milano, Novara Torino, Novara Domodossola. Ho capito. Bene. Lei lei mi dà così lo stimolo a parlare di una cosa molto divertente. Molti ricorderanno, non, diciamo che magari chi faceva la linea passava da Cesena o da Bologna, ricorderà il famoso sacchetto di Casali. Il sacchetto di Casali era diciamo molto prelibato, perché dentro c'erano lasagne, c'era un quartino di Albana, insomma era diciamo un pranzo raffinato che veniva servito appunto al volo alla stazione. E c'è una storia bellissima che riguarda appunto la famiglia Casali, soprattutto una battuta: ungere le ruote. Ungere le ruote deriva proprio da questa, diciamo, come posso dire, invenzione di Casali, il quale era d'accordo con i macchinisti, i quali rallentavano la partenza perché andavano a controllare le ruote. In realtà era fatto per permettere a Casali di servire il proprio cestino, e quindi lì è nata la battuta ungere le ruote. Ma ora allinea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta. Eccoci di nuovo, siamo in fondo, diciamo, a questa trasmissione sulla schiscetta e alla pausa a pranzo. Ora andiamo a Firenze, abbiamo girato varie città: Roma, Milano, Palermo. Ma vado a Firenze perché in pochi metri, in una via di Firenze, forse dal ricordo amaro perché anni fa fu diciamo luogo dove scoppiarono delle bombe che fecero anche tutta una serie, crearono una serie di grossissimi problemi alla città e di paura in quel periodo. In questa via di Firenze ci sono due locali, c'è una paninoteca che si chiama Ino e c'è un ristorante che si chiama Ora d'Aria. Ora, perché questi due locali, perché così vicini? Perché ognuno di loro due offre una pausa pranzo completamente diversa. E vorrei ancora ricordare che, oltre a questa diversità che ora andremo a verificare, vorrei parlare, Firenze è una città straordinaria dalla pausa pranzo. Perché? Perché ci sono i famosi carretti dei trippai o di coloro che vendono il panino al Lampredotto, che diciamo ormai è diventato famosissimo, è un punto di riferimento anche per gli stranieri, e se uno va a Firenze in questi tre punti, quattro punti dove ci sono questi carretti, vede che c'è a mezzogiorno veramente la fila. Ma ora andiamo da Alessandro Frassica, che è il proprietario di Ino, che è appunto la paninoteca. E Alessandro, ma tu senti la concorrenza di Marco Stabile dell'Ora d'Aria per il pranzo di mezzogiorno? Ciao Davide, innanzitutto buongiorno a te e a chi ci ascolta. No, ma assolutamente non è un problema di concorrenza, anzi, io sono stato uno degli sponsor e dei fautori che ho cercato in tutti i modi che Marco, quando aveva intenzione di spostarsi, venisse qui accanto a me, perché anzi, più ci sono delle realtà di qualità in questa zona, e più la gente ha la possibilità di scegliere e avere la possibilità di trovare delle cose diverse. Io mi ricollego a quello che dicevano prima nel sondaggio, perché molta gente secondo me mangia sempre di più al lavoro, perché purtroppo l'offerta che trovano è scadente, e allora al di là del costo la gente giustamente vuole mangiare buono e sano, quindi più proposte ci sono in tal senso e più stiamo meglio tutti. Senti Alessandro, mi puoi dire qual è il panino più richiesto? Devo dire appunto che Alessandro Frassica serve una serie di panini davvero di grandissima qualità con ricerca della materia prima. C'è un panino in particolare che è più diciamo richiesto di altri? Ma diciamo si va anche un po' con le stagioni, cioè, quindi anche noi cerchiamo sempre un po' di rispettare anche quello. Vedo che c'è sempre più domanda di panini vegetariani, c'è sempre più domanda di verdure, di cose che alla fine anche dall'aspetto diciamo nutrizionale diano quel tipo di apporto. Quello devo dire che in questo momento è la cosa, e anche noi abbiamo decisamente ampliato l'offerta da quel punto di vista. Bene, sentiamo Camilla da Torino, sentiamo anche una torinese. Buongiorno Camilla. Buongiorno. Mi dica. Non ho sentito nessuno diciamo definire la schiscetta proprio in classico torinese. In torinese è il baracchin. Che significa? Proprio barattolo, però è la schiscetta, quella che voi chiamate. Sì, no, appunto, vuol dire barattolo, baracchin, quindi è giusto. Barattolo, baracchin, piccolo barattolo. E per estensione, tra l'altro, vengono denominati anche i baracchin, normalmente i turnisti della Fiat, che si portavano il baracchin per mangiare. Bene, grazie, veramente un bel intervento, la ringrazio molto, perché ha dato appunto, abbiamo visto in Calabria, abbiamo visto da altre parti, ora a Torino abbiamo sentito un ferroviere, e ora sentiamo appunto che i tornitori venivano chiamati appunto con il nome della loro schiscetta. Ora torno a Firenze e vado da Marco Stabile, perché è un ristorante l'Ora d'Aria, ma ha un lunch business molto particolare, perché diciamo che offre una serie di piatti che non ci sono poi alla sera, poi li spezza, si può prendere mezza porzione, quindi si possono fare tre mezze porzioni. Marco, ma funziona in questa maniera questo tipo di offerta? Ciao Davide, ciao a tutti. Sì, funziona molto molto bene, anche perché a pranzo ci sono chi ha voglia di mangiare un piatto velocemente, quindi non impegnarsi tanto, ma anche i curiosi che vogliono assaggiare più cose, quindi lì si realizzano con queste piccole porzioni che io chiamo un po' alla spagnola tapas. Ecco, ma la senti la concorrenza di Alessandro lì vicino a te con i panini? No, io sento la sinergia di Alessandro e tra l'altro ci scambiamo giornalmente idee e cose. Infatti lì c'è il mio panino, da me c'è abbinamenti che fa lui nel panino, quindi insomma è una sinergia grande per portare le persone a capire la qualità, sia nel panino sia in piccoli piatti. Quindi ormai siete diventati il punto di riferimento anche della pausa pranzo in quella zona lì? Assolutamente sì, e ti dirò di più, c'è anche un nostro amico che fa il gelato di qualità, quindi proprio accanto a noi. Stiamo creando un polo, direi, molto interessante. Bene, bene, rimanete con noi ancora. Sentiamo Luisa dalla provincia di Milano. Pronto? Sì, buongiorno. Sì. Buongiorno Luisa. Buongiorno, senti, io volevo dare la mia testimonianza che mi sono ricordata da bambina. A Novara andavo a scuola dalle suore e arrivavamo a scuola con il nostro cestino di rimini, la mamma ci metteva dentro la schiscetta, le suore ce la ritiravano e ce la davano al mezzogiorno scaldata, perché ai tempi c'era la scuola a tempo pieno. Ce la davano scaldata e poi loro ci davano la frutta e altre cose. Senta, si ricorda cosa c'era dentro di riscaldato? Si ricorda un qualcosa di particolare che magari non ha voluto più mangiare perché l'ha mangiato tantissime volte? No, niente, perché mia mamma variava molto e quindi non avevo di quei problemi. Quindi c'era una cucina di scriscetta molto variegata, mi vuol dire, questo è il punto? Sì. C'era il giorno che mi dava, non mi davano magari le minestre perché magari potevo uscire qualcosa di liquido, però o risotto, pasta, magari anche solamente la bistecca impanata con qualche cosa. Ah, però, si trattava molto bene quindi. Insomma, evidentemente piaceva cucinare mia madre. Grazie, ecco. grazie Luisa. Torniamo ad Alessandro Frassica. Alessandro, senti, diciamo che si parla dei panini ora sempre di più. Ovviamente in giro c'è una qualità dei panini sicuramente non di grande livello. Ma quanto può costare un panino, diciamo, fatto di buone materie prime? Mi fai una bellissima domanda, perché se c'è una cosa su cui da quando abbiamo aperto chiaramente la gente si pone delle domande è proprio sul prezzo, perché i nostri panini in valore assoluto non sono assolutamente dei panini a un prezzo per come uno era abituato, perché noi vendiamo panini dai 4-5 ma soprattutto 7-8 euro, anzi quelli poi da 8 euro sono quelli che alla fine vanno per la maggiore. Sai, il ragionamento è quello, e se vuoi scegliere degli ingredienti di qualità, se vuoi un ambiente di un certo tipo, ma non di un certo tipo inteso come lusso, ma nel senso che le cose siano fatte in maniera corretta, che il tuo personale sia giustamente pagato in maniera corretta, che tu ti sei conosciuto, cioè ci sono dei margini a cui non puoi venir meno. Io mi chiedo come mai a volte vedo dei panini che costano 2 euro, come mai vedo un cornetto surgelato che costa 1 euro, cioè forse bisogna chiedersi come mai certe cose hanno un prezzo alto, ma anche come mai certe cose hanno un prezzo troppo basso. Bene, a Marco Stabile invece voglio chiedere chi è il suo cliente tipo del business lunch. Ma guarda, si va da alte cariche politiche all'operaio che magari a fare qualche intervento lì intorno, che magari è un gourmet, ha voglia di provare qualcosa di diverso e riesce a farlo per i prezzi contenuti interessanti, quindi diciamo un po' a tutto tondo. Molti sono anche negozianti che hanno poco tempo e quindi con 2 tapas risolvono la giornata e vanno via veramente felici. Ci dai un prezzo di una pausa pranzo diciamo contenuta? Guarda, la media è 25 euro, in cui ci entrano 2 tapas, un piccolo dolce e un bicchiere di vino. Quindi un pranzo. E il caffè anche ce lo mettiamo? Caffè anche, perché abbiamo sempre nell'ottica di un pranzo intelligente, abbiamo messo per esempio il caffè a 1 euro come al bar, e quindi non imponiamo di dare la piccola pasticceria come invece facciamo la sera in un contesto che porta il suo prezzo. E quindi gli diamo solo il caffè come al bar e quindi se lo godono anche a pranzo. Bene, grazie a Alessandro Frassica e a Marco Stabile. Bene, ora io vi do appuntamento domani con il Riposo del Guerriero alle 11.15, ogni giorno con la pillola delle 11.05 e replica alle 23.05. Però prima di chiudere mi corre un pensiero alle famiglie dei ragazzi della scuola di Brindisi, un pensiero sicuramente va a loro in questa giornata per loro molto triste. Un saluto da Davide Paolini.